pronto, c'è Christine? Lo sai, ho avuto qualche problema con la police, ma ora sono dolce come una Kinder Delice. Ti ho in pugno, piccola, sai? Il mio amore è una mossa tipo samurai. Ho avuto dei problemi con l'FBI, ma un uomo così non l'hai visto mai. Ti porterò a mangiare le zampanelle, ti porterò a vedere le Seychelles. Senti Max con la chitarra, questa è una serenata tamarra per dirti, oh mia piccolina, questo blues senza rima. Non tardare a dirmi, dov'è Christine? Dov'è Christine? Christine? Pronto? Pronto?